Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, buon pomeriggio, sono le 14 e una manciata di secondi, una nuova puntata di Voice Anatomy. È domenica, è 8 ottobre, tu non parlare, ti presento io. Ma prima di conoscere la nostra straordinaria ospite, attrice e doppiatrice, oggi ci ha salutato un grandissimo che con la sua voce, e non soltanto, ci ha tenuto tanta compagnia, ci ha divertito, ci ha fatto pensare, ha cambiato un po' le regole del gioco del calcio, soprattutto sulle trasmissioni sportive. E io do un bacio grandissimo a quest'uomo, Aldo Biscardi, ascoltiamolo un attimo. Se vuole venire a processo a disposizione, specie di cul-de-sac, insomma. Voglio che anche le partite dell'Italia vengano trasmesse dalla RAI e dalla P. Non mi interessa che le trasmette. Lascia in eredità agli italiani le partite dei mondiali. Ecco, caro Aldo, speriamo che questo sia un buon augurio per la nostra nazionale in questo momento un po' tentennante, troverò una parola giusta, non è tutti convocati ma è Voice Anatomy. Va bene, caro Aldo, grazie di tutto della tua simpatia, giocò anche con noi della premiata ditta giocando su se stesso, uomo dotato di grandissima ironia e di grande intelligenza. Va bene, un saluto ad Aldo, lo abbiamo fatto, ce l'avremo sempre nel cuore, e invece saluto al mio fianco questa straordinaria voce, non solo, anche un corpo interessante. Grazie. So che hai portato tuo marito, però insomma, che significa? Saluto dall'altra parte, adesso ti presento bene all'altra parte del vetro, il nostro immancabile Alessandro, tecnico ingegnere del suono, Rachele, caporedattrice di se stessa, da sempre i miei straordinari autori, capoprogetto Alessia Navarro e Mauro Meconi, felice perché il suo Mamma Nero, questa serie web, sta avendo un grandissimo successo, la prima puntata sta intorno ai 100.000 visualizzazioni, nonostante abbiano cercato di fermarla in qualche modo, non ci stanno riuscendo. È andata già in onda la seconda puntata ieri ed è, ovviamente la potete vedere sui siti di Mauro, di Alessia Navarro, il mio, quella di Voice Anatomy, stanno tante condivisioni, sta già oltre le 30.000 visualizzazioni. È bello quando si gioca con i nuovi mezzi, con i nuovi media, in questa maniera così intelligente. Poi, insomma, decidetelo voi. Mamma Nero è lì che vi aspetta. Mi sta aspettando anche lei, Roberta Pellini. Ciao, Robby. Ciao, Pino. Ciao a tutti. Lei è abituata ad essere imperatrice, principessa, esatto. Presidente, eccetera. Per cui raccontarvela è difficile, perché, insomma, più di 500 film hai doppiato. Mm-hmm. Ma chi ti chiede chi sei? Con quale voce, con quale frase di un personaggio magari ti racconteresti? Ti viene in mente? Ma mi viene in mente un'espressione di Nicole Kidman in Australia. Porca vacca, chi sono? Non lo so. Porca vacca, non ci sarei mai arrivato. Ecco. So che sei Nicole Kidman e non solo. T'ho fregato. Kate Blanchett, sì, ma porca vacca, mi sembra un film del Monnezza. Porca vacca, ma chi sono? Ma porca vacca, chi l'ha adattato? Nicole Kidman diceva porca vacca su Australia. E tu ti devi rifiutare di una cosa del Hugh genere. Jackman. Perché Hugh Jackman era un burino. No, Hugh Jackman era, sì, un vaccaro, e diceva porca vacca. E sì, lei per imitarlo, che invece era una signora molto English, porca vacca. Così, se ti devi raccontare una persona e far capire chi sei, porca vacca. Ma chi sono? Io non lo so chi sono. Guarda, visto che hai cominciato con la bravissima Nicole Kidman, mi faccio sentire invece Roberta Fellini, che fa Nicole Kidman, ma in un bellissimo film di Baz Luhrmann, anche quello Australia, esatto. Era il suo, anche se insomma non è stato il più bel film. Sì, no, il più bello ma è un tu altro. Tu eri Nicole Kidman in Moulin Rouge. Sì. Scusate sì. La mia pronuncia tedesca. Allora, il film è bellissimo, un provino vinto alla grande, proprio scelta da Baz Luhrmann, quindi una grande soddisfazione. Sì, sì, veramente. Mi chiamò, mi disse, guarda, io ho scelto Robertina, secondo te? Io ho detto Baz, fa come te pare, era Buzz Lightyear però. Ascoltiamola, Roberta Pellini, Moulin Rouge, Nicole Kidman, porca vacca. Stai perdendo il tuo tempo, Harold. Bambolina, tu non capisci. Il duca farà uccidere Christian. Cosa? No. Il duca è pazzo di gelosia. Se non avrai il suo finale e non andrai a letto con lui domani sera, il duca farà uccidere Christian. Non ci fa alcuna paura. È un uomo potente, sai che ne è capace. Che stai facendo? Non ho più bisogno di te! Per tutta la vita mi hai fatto credere che valevo solo quello che erano disposti a pagarmi! Ma Christian mi ama! Lui mi ama, Harold! Lui mi ama! E vale più di qualsiasi cosa! Ce ne andiamo lontano da te, lontano dal Duca, lontano dal Moulin Rouge! Addio, Harold! Stai morendo, Satine. Stai morendo. Un altro trucco, Harold. No, amore mio. Ce l'ha detto il dottore. Beh, un unico commento. Porca vacca. Sì, adesso rimarrà nella tua memoria ma profonda. No, ma questa è l'esclamazione dopo averti sentito recitare, che io ti conosco perfettamente. Le persone, ovviamente, anche. Ho vinto anche tantissimi premi, anche questo bellissimo Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Che ci sarà il 23 novembre, poi ne parleremo strada facendo. Però veramente le tue interpretazioni sono belle, perché qui sembra un esercizio di stile sulla recitazione. Adesso vi faccio sentire una persona come passa dalla rabbia al tormento, alla paura. Ma è tutta questione di cuore, penso, Pino, sai? Sì, grande professionalità è cuore. No, il cuore, se lo lasci da una parte, diventa solo tecnica. È vero. Per cui tu, quando hai cominciato, fai parte di quella fucina di attori straordinari nati in questa scuola del gruppo 30. Sì, del gruppo 30. Della famiglia Izzo. Renato Izzo e tutta la famiglia. Abbiamo fatto insegnanti. Questo corso dove facevamo recitazione, allenamento al sync. Parliamo di più, quasi 30 anni fa, ma non voglio dire, però 25 tutti. Sì, io avevo 23 anni, sì, esatto. Per cui adesso ce n'hai? Ti aspetta, non 53, c'è no! Quanti ce n'hai? Perlini, quanti ce n'hai? Ne ho 57, quasi. Ma ti droghi? A novembre. Cioè, sì, 57 anni sembra più giovane di me, che sembro già un bambino. Mi drogo di integratori. Sì, ho capito, ma te ci tuffi dentro. Esatto. No, 57 mai dati. Tu quanti ne hai? Beh, un tot, 59, tanto su Wikipedia. Beh, pure tutto riporti bene. Addio. Ma è il corpo che mi salva a me. Questa, questo corpo straordinario che mi porto anche dietro. Anche la testa, anche la testa. Sì. Sento crescere i miei capelli. Vero? Cioè, no, sono portatore sano di capelli. Cioè, i miei amici mi dicono: ma li vuoi perdere? Li vuoi perdere? Beh, c'è chi c'ha più capelli. Meno. Magari, come dice il mio amico Ciufoli, tu c'hai qualcosa fuori, io invece ho qualcosa dentro che a te ti manca. Per cui, se volete mandarci come sempre i vostri sms che ci fanno tanta compagnia, 349-238-6666. Poi, se volete ovviamente farvi una passeggiata vocale insieme a noi, 800 24 00 24. Anche oggi va avanti il nostro talent, che tanta forza sta dando a questi ragazzi. Sono contento che c'è una possibilità, magari fra le persone che vivono fuori porta, di venire magari a Roma e tentare questa strada, che diventa sempre più difficile. Ma è non, difficile, non sì, perché anche sia un ghetto, ragazzi, no, mai, no, no, assolutamente. Per i tempi che ormai sono diventati veramente deleteri, cioè assistere troppo veloci. Esatto, assistere troppo un turno veloci diventa più difficile, perché non c'è tempo, c'è bisogno del bench per entrare, essere. Noi ci fanno firmare ormai delle cose, Roberta, di privacy. Manca l'impronta del dito ormai. Sì, non posso dire, non puoi dire più niente, che c'è l'arresto immediato da parte dell'Interpol, l'FBI e Scott Rayard. Poi il direttore non ha più tempo di seguire, esatto, di ascoltare e seguire il ragazzo che va a fare il provino. Per cui Radio 24 in joint venture per utilizzare, in co-branding per utilizzare, visto che siamo sulla radio Confindustria con la Warner Bros, fino a dicembre, dando la possibilità a qualcuno di poter essere presente magari in un film. È un'ottima iniziativa. Della Warner, ci sarà poi una finale, eccetera. Vi state alternando 6, 8, 4 a settimana. Tutti gli altri, vi ripeto, nessuno resterà indietro delle persone scremate, non cremate, attenzione, scremate. Porca vacca. Porca vacca, se no c'è brutta gente che si tocca ovunque, per carità di Dio. Per cui lì il gruppo 30 è stata una fucina bellissima, te, Massimo Corvo, mille persone. Massimo Lodolo, tantissimi, tantissimi. Sì, da lì poi ho iniziato subito a lavorare, tant'è vero che primo provino finita. Vinto? Primo personaggio che ti ha cambiato la vita? Beh, ho iniziato a fare Quando si ama, Triscia di Quando si ama. Eri Triscia, è vero, perché ero uno dei tuoi fidanzati. Io facevi i personaggi che morivano quasi subito. Tu eri Triscia, no, invece. No, il mio fidanzato ufficiale era Steve. Tu Steve. Che facevi? Io non un altro, ricordo. Un altro, non che so, è morto. Sarà morto, era sparito a un certo punto. Però erano tanti turni, perché dopo io cominciavo Febbre d'amore. Eccola, Quando si ama. Che ricordi. Successo poi Quando si ama, fu la prima delle serie. Tantissimo, poi veramente mi ricordo che conobbi anche lei, in Rai, Noel Beck sì, si chiamava. Ma Noel per Beck. Me, normalmente non parlo di me perché è una trasmissione dove io non c'entra niente, ma facendo lo stesso mestiere. Però quando si ama lo dico perché è stata la svolta della mia carriera, nel senso che fino a quel punto doppiavo i porno. Da lì, quando si ama, sono stati i primi 10 turni. Adesso ti racconto una cosa, Pino, che io il primo, allora, ho iniziato da tipo 5-6 mesi, però andavo bene. Mi chiamano, sempre turnetti così singoli, e mi chiamano per 7 turni di un film. Allora lo dicevano se era un porno. Io mi ritrovo dentro un film di 7 turni, un porno, l'hai non fatto sapendolo. Pure tu. L'ho fatto perché il titolo. Adesso ci sono. Ma chi se lo ricorda? No, ti devi ricordare i titoli, io lo dico ogni volta. Il mio film obiettivo, no, mi frega niente, Il Signore degli Anelli, tutto quello che ho fatto, ma Eiaculazione da Tiffany per me resterà per sempre un punto di riferimento del mio doppiaggio. Però quando si ama lo ricordo con grande affetto perché fu. Vero. Poi lo dirigevi con, anche tu, però no, non stavo. No, io lo dirigevo, l'ho diretto poi. Dopo, perché non eri dopo, tu. All'inizio era la grande Adriana De Roberto. Esatto, esatto. Grande direttrice. Ma infatti erano questi personaggi che a noi ci hanno dato la possibilità di imparare. Era la palestra. Tanto, perché fra sì, quello, General Hospital, Febbre d'amore, sì. La Valle dei Pini. Vabbè, la Valle dei Pini se ne la facevo io, non la poteva fare nessuno, insomma, almeno quello. Però ci diede tanta possibilità di imparare. Insomma, imparare. Era cominciare. Una grande scuola. E siamo entrati. Voglio sentirmi un'altra alla quale sei molto affezionata, che è Kate Blanchett, che fai sempre più o meno, no? Sì, diciamo. Sì, sempre. Nicole Kidman magari può succedere che passa di mano in mano. L'ho fatta 3 volte, poi è passata a Chiara, che è una bella collega. Beh, sì. Tanto, non c'è niente da dire. Tanto lo urlo. No, ma io non sono così attaccata. No, ma non è quello, tanto è un'altra persona brava, sì, per certo, cui non dici, mannaggia, certo. L'ha preso la fidanzata di... No, no non no, c'è affatto, possibilità. Affatto. Però questo Elizabeth, che è lì che hai vinto il gran premio. Elizabeth è il secondo, The Golden Age, sì. Ti premiai, ti io te l'ho dato, baciandoti anche in maniera molto intensa. È vero, me lo ricordo ancora la lingua. Cioè, ti ricordi come andava? Mamma mia, erano altri momenti, insomma. Lo stiamo dicendo di fronte, porca vacca, vino, di fronte dai. Ai nostri cari, te l'ho detto, dice, ma non mi fa domande difficili, eccole le domande difficili, compromettenti. Ascoltiamola Roberta, che poi per strada te lo chiedono mai, dice, mi fai quella voce lì, ma come fai a farla estrapolata dal film? Ma guarda, lei è stata difficilissima da doppiare, mi ricordo con Marco Guadagno in direzione, che mi ha fatto lavorare tanto, e lo ringrazio pubblicamente, perché poi in un turno... lei ha una vocalità molto bassa, lei fa tantissimo teatro, la Kate Blanchett, si vede. E aveva questa bocca in primo piano, urlava, io non riuscivo a coprirla perché con tutta la forza e la potenza che potevo avere, non riuscivo. Lui mi ha detto, guarda Roberta, devi far partire la voce da, dal basso ventre. E io ho provato un'emozione che non avevo mai provato, sinceramente, perché la voce tuo non marito viene... neanche aveva no, la voce ho capito, ma insomma, non mi era tu mai parli... arrivata. Perdonami. Fino a quel punto capito, ma mi parli di basso ventre e mi dici che è un'emozione che non hai mai provato, tuo marito è di là che ti sta ascoltando. Vabbè, non è che non c'era lui ancora sensuale, non c'era ancora lui. No, non c'era, non c'era in 2000. No, no. Vabbè, allora non è colpa tua. Allora ascoltiamola questa grande voce. Quello che dicevi prima, il cuore il corpo dentro, esatto. le vene, le arterie. Elizabeth, Kate Blanchett, Roberta Bellini. Non posso offrirvi alcuna parola di conforto. Questa armata che sta navigando verso di noi, sappiate che porta in grembo l'Inquisizione. Prego il Dio che essi falliscano, perché non ci sarebbe più libertà in Inghilterra, né di coscienza, né di pensiero. Questa terra non può essere sconfitta. Le campane dovranno suonare da ogni torre. I contadini dovranno abbandonare i campi e impugnare le armi. Il raccolto deve aspettare. Tutti i prigionieri saranno rilasciati. L'Inghilterra è il loro paese anche. Rilasciate Raleigh. È perdonato. Poiché anch'io voglio essere perdonata. Porca vacca. Bello. Bello, sì. Che è successo? Porca vacca. L'hanno trovato. Bravo. E fammelo sentire. Questo è un buono. Porca vacca. È lui. Che bello. Questa è la suoneria, potete utilizzarla. Ogni tanto sì. Ci chiedono delle cose. Fai, stai zitto un attimo, Pino, difficile. Manca, e manca. Lascia dire questa frase, questa formula diomatica, e sì. Noi lo registriamo per la segreteria. Messaggi di complimenti, ovviamente questo mi fa ridere. Non vorrei fare quello femminista spaccapalle, ma il commento sul corpo della bravissima Fellini l'avresti fatto su Pannofino? No. No, non l'avrei fatto, no, avrei detto grande voce, grande simpatia, grande professionalità, ma avrei evitato ogni commento. Senti, e poi la direzione, hai fatto la direzione dei Quando si ama, da lì. Qual è stato lo sliding doors, la domanda alla Marzullo che facciamo sempre? Dove hai sentito, ecco, questo è il lavoro mio? Da subito. Tu dici nel doppiaggio, il doppiaggio. Io fin da piccola io volevo fare l'accademia veramente, poi per una serie di cose anche in famiglia non è stato possibile, e per cui mi era presa questa fissa del doppiaggio. Già lavoravo in Rai come speaker eccetera, e ad un certo punto apro il giornale e vedo questo annuncio di questo corso indetto dalla Regione Lazio proprio con il gruppo 30, e quindi mi presento lì, 300 persone, ne hanno prese 20, sì. Tra cui me. Le 20 quindi. Che tuttora sono le mie voci sì. Più belle che stanno in circolazione, in fin dei conti. E io mi ricordo che portai una pagina di Todo Modo di Sciascia. Niente, una cosetta. Una cosetta, Todo così, Modo di Sciascia. Io non credo che i ragazzi di oggi hanno portato Todo Modo di Sciascia. A me piaceva tantissimo, quindi la sì, portai. Te la ricordi? No. Faccio il provino. Ma non me lo chiedere. No, non te lo chiedo. No, farei una brutta figura. Todo Modo, io ho visto il film, mi ricordo. Spero che sia tratto da Sciascia. Sì. Il film di Petri, che credo, non voglio dire, anche perché mi correggono in due secondi. Il web, purtroppo, mi massacra. Adesso ti correggeranno sicuramente. Porca miseria. Un altro dove sono impazzito, la gioia, dove sei stata straordinaria, me lo dico sempre. Hai sempre lasciato grazie, Pino. La tua firma, ma poi non si riconosce. È quella, secondo me, il complimento più bello. Sì, è vero. Voi, soprattutto fra voi donne, siete più brave da questo punto di vista. Non vi sedete sulla voce. No, si crea proprio una sintonia con l'attrice. Io è proprio un connubio, no? In cui si aprono dei canali. I canali che ha aperto lei emotivamente si congiungono con i miei. E lì nasce il tutto. Esatto. Cioè, non ti siedi sulla bella voce. No. I maschietti un po' di più. Forse sì. Sì, siamo un po' più così. No, ci piace un proprio ascoltare. Ne parlavamo con Luca Ward, proprio non ce ne frega niente certe volte come parla lui, e noi andiamo. Andate con la vostra bellissima voce. Oh, bellissimo. Io la gamma e cerco di fare pure i film comici, vero, però voi femminucce, Laura Romano la scorsa settimana, sì. Eccetera. Siete veramente in gamma. Ma ci fu questo film dove lei vinse l'Oscar, Charlize Theron, questo Monster. Film pazzesco che io vi consiglio come i film che abbiamo sentito fino adesso, Moulin Rouge, Elizabeth, se non li avete visti soffermatevi e guardateli. Perché un film che non ho potuto vedere per 5 mesi. Sì, perché era perché duro. Tonina duro. Colla, il povero Tonina Tonino. Colla mi bisogna aveva... fare una puntata. Sì, è vero. Mi aveva lei nella scena piangeva veramente e io ho dovuto piangere realmente cercando un motivo molto simile al suo, che era proprio il concetto del perdono. Ah. E lì si è aperto, infatti dopo gli ho detto scusa, mi devi pagare il terapeuta adesso perché me l'hai aperto. Ah, e sei andata sulla stessa parallelismo emozionale, proprio la stessa cosa. Normalmente uno cerca magari un'altra strada per trovare una cosa mia che però appartenesse a quel concetto, e duro. Però si è aperto un varco enorme. Da lì la Bellini è sparita dal doppiaggio. Dice, ma che fine ha fatto? Non mi conviene. Si è aperto un canale, lo sta cercando di richiudere. No, il film è duro, ma è una storia vera. È una storia vera, sì. Dove lei è ingrassata 25 kg, sì, no, mi ricordo. Ha perso totalmente anche la fisionomia, la fisionomia del viso. Sì. È stato diversa. Molto difficile anche trovare la voce, il modo di recitare. Sì, era sporco, brutto, sì, cattiva, sì, ma esatto. Non western. Era... Esatto. Ascoltiamo, abbiamo la possibilità di averlo. E allora io un momento di questo Monster che valse l'Oscar a Charlize Theron e valse anche un porca vacca con un applauso di Roberta Pellini. Ascoltiamolo. Quando ero piccola avevo tantissimi sogni e in segreto speravo sempre di trovare la persona che mi avrebbe scoperta. Era questo, o forse quest'altro. Chi poteva dirlo? Io ho vissuto in questo modo per tanto, tanto tempo. Sognando in questo modo. Ma un giorno ho smesso. Sono senza soldi adesso e così sto cercando di mettere su qualcosa. Un po' di liquidi, insomma. Forse ti posso aiutare. Quando ho incontrato Selby Wall, l'unica cosa che volevo era una birra. Pago io questo giro. Ho i soldi miei. Stavo cercando qualcuno con cui parlare. Ti va di stare con me? Chi è quella persona? Un'amica, l'ho appena conosciuta. Io penso che sia una donna di strada. Dove hai preso questa macchina? Me l'hanno prestata. La vita è strana. È strano anche come le cose possono essere molto diverse da come ti sembrano. Ti senti bene? Sta andando tutta alla grande. Io non sono una brutta persona. Io sono davvero una bella persona. La polizia invita chiunque abbia informazioni riguardanti questi delitti a contattare le autorità locali. Lì, chi ha ucciso quell'uomo? Secondo te? Oh mio Dio. Ma tu non potrai mai capire, perciò devi fidarti di me. Ho tutto sotto controllo. È tutta sballata, sballata! Mi ha pestata, violentata, voleva uccidermi. Non puoi ammazzare la gente! Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Donna, come... Che paura. Mi puoi rimettere solo questo chi l'ha detto finale per capire con quanta rabbia e quanta cosa che tu non hai, che uno non ha, perché stai davanti a un leggio con un microfono. Certo. E quel chi l'ha detto ha fatto è stato un cazzotto sul basso ventre proprio. Sì. Ce l'hai, Alessandro? Sei... Non puoi ammazzare la gente! Chi l'ha detto? Mamma mia. La rabbia vera. Pensa se tuo marito dice: ma tu hai detto ieri, chi l'ha detto? Te parte la brocca in quella maniera. Tu sei pazza, no? Povero, no, sì, no. No, mai un esorcizza facendo questo, certo. Tu teatro hai cominciato lì. Io ho fatto qualcosa prima, poi, e poi l'abbiamo abbandonato? Poi l'ho abbandonato, l'ho ripreso 4 anni fa, ho fatto una cosa a teatro. Ma sai cos'è? A me, facendo questo lavoro, il teatro stanca tantissimo. Ho capito, cioè, non si riesco. Prendono 2 turni in meno e si fa esatto, teatro. Esatto, però... Pigri, doppiatore, diventa un attore pigro. Mi piacerebbe tanto farlo. Sarebbe comunque manco difficile, insomma. No, no, assolutamente no, assolutamente no. È che bisogna gestirsi meglio il lavoro, il doppiaggio. Sì. Sì, è certo, si evita il primo turno magari. Però sai, quando ti dicono, no, perché bisogna consegnare, perché... Poi si consegna, lo sai, Pino Locchi diceva sempre, hai mai visto un film che non esce? Esce, esatto, in qualche modo. Esatto. E adesso è diventato il pronto soccorso il doppiaggio, cioè 118. Però ma te lo sai, corri la, fra la un'ora... battuta di un nostro carissimo collega Alessandro Quarta, no? Mm-hmm. Che spesso noi diciamo, vabbè, ma che stiamo a fare, un'operazione a cuore aperto? Certo. Alessandro ha detto, adesso i chirurghi in sala operatoria dicono, mica siamo doppiatori, esatto, stiamo a fare doppiaggio. È vero, è diventata una cosa, non puoi dire niente, non puoi, poi con le serie, poi parliamo... Nel prossimo blocco con te delle serie che tu, sì, ne hai fatte tante e ne fai tantissime, anche, sì, lì non si può raccontare tanto, niente, io, a nessuno. Stai zitto perché c'è lo spoiler che poi è vero, che non è una, sì, macchina senza tettuccio, che dici come va a finire una scena o che, sì, sì, sei passibile una privacy, eh, certo, da denuncia, scherzi. Il signor Megoni e la signora Navarro ci hanno dato una cosa da leggere a tutte e due. Che facciamo? Leggiamo? Proviamo. Dai. Gli occhiali mi assisteranno. Io non so, perché poi ovviamente non lo sapevo neanche io, nonostante io lavori in questa trasmissione, te lo dicono dopo, sono... Ci hanno preparato, come fare, sono 10 consigli zen per vivere meglio e goderti la vita. Sì. Mauro è entrato perché ovviamente siamo anche certe volte in diretta Facebook. Ok. E poi mettetelo questo mi piace, siete ormai più di quasi 20.000 che seguite la trasmissione su Facebook, e ci mettete il rumore che sentite, è l'elastichetto della cuffia che Mauro mette vicino al telefono mentre riprende, così sente anche la musica e viene completa. Ma per questo sei un bravo regista di Mamma Nero e invece un cattivissimo di romanzo criminale, assassino. Ma Pollo non torna in questo terzo episodio di Moccia di 3 mesi sopra il cielo? Fallo rimorì. Ah, è vero, sei morto tu nel primo. Però torna il fantasma, neanche. Speriamo, Pino. Qualche posa in più non è male. Moccia, fai rivivere Pollo. Che adesso è cresciuto, c'ha la prostatite. Insomma, è un momento difficile. Che fai, cominci che tu? Sì, uno per uno, sono 10. Mettiamoci. Ma mettici... come lo dobbiamo leggere? Che ne so? Non lo so, vai te, una volta come imperatrice, una volta come... Va bene, film comico, okay, una volta. Non lo so, perché poi non so neanche che cosa dovremmo, okay, dire. Dai, comincio io, so, dai. No, no, no, comincio io, vai. Cominci tu, va bene. 10 consigli per vivere meglio, zen. Primo consiglio, Roberta Bellini. Fai di meno. È piuttosto arduo riuscire a rallentare se continui a cercare di distreggiarti tra innumerevoli attività. Al contrario, scegli consapevolmente di fare il di meno. Focalizzati su ciò che per te è davvero significativo e prioritario e lascia perdere il resto. Prova a vivere in modo frugale. Prova a cercare la pienezza nella semplicità e nella gioia dei piccoli piaceri. 2. Sii presente. Prova non solo a rallentare, ma anche ad assumere e mantenere la piena consapevolezza di ciò che stai facendo nel singolo momento, qui e ora. Sì, presente, consapevole in ogni istante, focalizzato sul presente, assapora il momento. Rimani centrato e consapevole delle tue azioni, delle persone intorno a te e dell'ambiente che ti circonda. Se ti accorgi di stare pensando a qualcosa che è già accaduto o che potrebbe avvenire nel futuro, gentilmente riportati nel momento presente e vivilo nella sua pienezza. Disconnettiti. Impara a liberarti dalla costante ossessione del telefono o del BlackBerry. Di tanto in tanto prova a tenerlo spento o a lasciarlo a casa. Se sei solito lavorare diverse ore davanti al computer, cerca di ritagliare degli intervalli di tempo durante i quali puoi dedicarti ad altro. Essere costantemente connesso significa lasciare continuamente aperto un flusso potenzialmente stressante di informazioni, tali da interromperti, distrarti e condurti in uno stato di ansia e frenesia. È piuttosto arduo riuscire a rallentare quando sei sempre impegnato a controllare i messaggi in arrivo. Va bene, io ti copio. Concentrati sulle persone. Molto spesso ci ritroviamo a trascorrere del tempo con parenti e amici, oppure ci incontriamo con dei colleghi e pur essendo presenti fisicamente non siamo veramente lì con loro. Parliamo con loro, ma siamo distratti da altri pensieri. Siamo lì, ma le nostre menti pensano a ciò che dobbiamo fare. Ascoltiamo, ma in realtà stiamo pensando a noi stessi, a ciò che vogliamo dire. Nessuno di noi è immune da questo comportamento, ma con uno sforzo consapevole hai l'opportunità di spegnere per un momento il mondo esterno a te e dedicarti esclusivamente alla persona con la quale ti trovi. Questo significa riuscire a essere presente per il prossimo, significa vivere intensamente un incontro, significa connettersi in profondità con altre persone e non semplicemente incontrarle in tal modo. Attraverso la consapevolezza del presente, anche un breve momento può acquistare una profonda intensità. Ammira la natura. Molti di noi trascorrono gran parte del proprio tempo nell'ambiente chiuso di un'auto, un autobus o un ufficio. Spesso il nostro tempo all'aria aperta si limita a pochi passi durante l'intero giorno. Al contrario, prova a prenderti il tempo per vivere parte della giornata all'aperto. Prova ad osservare da vicino la natura. Fai un respiro profondo quando l'aria è fresca e pulita. Vivi e gusta in pieno la meraviglia dell'acqua e dell'ambiente. Fai in modo che le attività all'aperto siano parte integrante delle tue giornate, porca vacca. Yazebash, mangia più lentamente. Inserire alimenti con voracità e ingordigia conduce esclusivamente all'accumulo di peso eccessivo e alla rinuncia del genuino piacere di cibo. Prova allora a mangiare lentamente. Sforzati, pensaci quando sei a tavola. Cerca di essere consapevole di ogni singolo boccone. Apprezza il sapore e il profumo del cibo. Riuscire a mangiare lentamente comporta il duplice beneficio di avvertire il senso di sazietà, ingerendo minori quantità di cibo e di gustare al meglio l'intimo sapore di ogni pietanza. Va bene, fermiamoci un attimo. Abbiamo fatto okay. Sei. Stiamo a fare la gara. Allora, ok, diamo la parola alla pubblicità. Torniamo subito dopo. Continua a rimanere qui Roberta. Sì. Comincerà anche il talent. E ascoltiamo una nostra amica, una grande docente universitaria per un evento straordinario. Non qui in Italia, ma va bene, ne parleremo con lei. A tra poco, Voice Anatomy, restate con noi. Anatomy. Bentornati signori miei, sono le 14:33 primi e 18 secondi, domenica 8, nuova puntata di Voice Anatomy. Al mio fianco Roberta Bellini, con la quale in questa prima mezz'ora ci siamo dilettati a percorrere la sua carriera e a raccontare questo zen. Qualcuno risponde anche a questo: vivo disconnesso, ho imparato ad esserlo, è meraviglioso, tutti mi odiano per come vivo, non so, ma so che mi invidiano, dice Francesca. I complimenti che ti arrivano da ogni grazie. Dove ciao, ancora non riesco a capire cosa è cambiato nel vostro lavoro, lavorate in modo diverso, ho capito, ma non capisco il vostro nuovo lavoro, ritmi, tempi, sono forsennati. Sono forsennati. Ciao Pino, sbaglio in The Others a doppiare Nicole Kidman? No, non era Roberta, ma la nostra cara amica Chiara Golizzi, certo. Straordinaria anche lei. Sì. E Dino Capuano, che non manca mai, ti fa dei complimenti per il tuo film di Miyazaki, Il Castello Errante di Howl. Howl, sì, grazie, l'ho pronunciato, ma io ho seccato perché ho sbagliato prima quando te l'ho letto in privato. Sì. dato prova di grande capacità vocale, eccetera, da giovane, anziana, viceversa, sì, no, tante cose. Invece a uno gli sto antipatico, vabbè, ci sto, non so chi è la cagnola, però dici, fino, tu ci stai provando a diventare come lei, non so chi è la cagnola. Oddio! Vabbè, ma io leggo tutto. Non solo i complimenti, se no ti fai bello, eccetera. Se sono motivati, questo non lo capisco, però va bene. Vabbè, gli incidiamo un porca vacca e glielo spieghiamo. Esatto, non è un problema, non è un problema. Invece, come preannunciavo nel blocco precedente, abbiamo un collegamento telefonico con Sara Zappulla Muscarà. Ci sei, Sara? Sì, ci sei, sono qui. Dove sei, Sara, in questo momento? In questo momento sono al mare, nel Siracusano, al sole. Ma dai, beata te. Siamo in diretta, diciamolo che è ottobre comunque. Sì, sì. Diciamolo, Sara. Perché... Sì, la giornata è bellissima. Dove sei? Non ho capito esattamente, al mare dove? È al mare in una spiaggia del Siracusano. Ah, in Sicilia, certo. Perché... Sì, in Sicilia. Diciamo perché stiamo parlando con Sara. Insomma, in occasione delle celebrazioni pirandelliane all'Istituto di Cultura di Belgrado e Praga, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello, c'è proprio Sara, che è ordinaria di letteratura italiana all'Università di Catania. Che succederà, Sara? C'è un evento straordinario nell'est europeo, no? Grazie. Sì, perché è la settimana della cultura italiana e naturalmente non possono non celebrare il più grande drammaturgo, sì, insieme a Shakespeare del mondo, e noi porteremo una mostra e un volume dal titolo I Pirandello, la famiglia e l'epoca per immagini. È un modo nuovo di ricordare Pirandello attraverso ben 632 foto, quindi una mostra veramente completa, sì, un linguaggio diverso, sì, per raccontare. Diverso quello appunto della foto, rivelatore per tanti aspetti, che ci narra, come dice il titolo, tutto il percorso esistenziale ma anche artistico dello scrittore, della sua famiglia e della sua epoca, dell'intelligenza del tempo. C'è anche suo figlio, cioè, non è che è presente, dico, sì, c'è anche la drammaturgia di Stefano, sì, Pirandello. Di Stefano Pirandello, che, insomma, non conoscono tutti questa storia. Ci guardiamo anche anni. Io e Roberta, che sì, ammettiamo il nostro limite sulla, sì, famiglia Pirandello, e questa è un'occasione importante, sì, per raccontare. Sì, perché sì, Stefano ha preferito essere un autore postumo per non essere schiacciato da questo cognome, beh, così importante da portare, e invece adesso che abbiamo pubblicato l'opera Omnia, è un scrittore straordinario anche lui, e siccome poi è fortemente autobiografico, allora ci aiuta anche a capire, a penetrare uno scrittore complesso, arduo, contraddittorio come Pirandello, e a restituire il posto nella storia del teatro che anche a Stefano. Per cui c'è anche questo volume, ricordiamo, insomma, I Pirandello è anche non solo una mostra fotografica importante che racconta la famiglia in un altro modo, un'altra declinazione, come facciamo noi con la voce qui, ma racconta, c'è anche un volume che è l'opera Omnia di I Pirandello stavolta. Sì, si è accorredo il volume, edito dalla Nave di Teseo, e comunque è un volume fotografico straordinario, perché ci sono tutti i protagonisti, non solo innanzitutto la famiglia, i figli, certo, la grande attrice Marta Appa, che era l'attrice privilegiata da Pirandello, ma anche i suoi viaggi, il premio Nobel e i suoi contatti con i più grandi della cultura del tempo, da Marconi a Einstein a Disney a Gershwin, che presenze queste che ci testimoniano la vastità dei suoi interessi, le curiosità, la volontà di sperimentare sempre nuove cose, dalla psicanalisi alla cinemelografia, cioè cinema, sì, sì, immagini e musica, al musical, cioè cose magari che in gran parte non si conoscevano. Ma infatti io credo che Pirandello abbia mosso l'interesse di... Io per esempio ho cominciato ad amare questo lavoro quando a 15 anni ci portarono all'Eliseo a vedere lo spettacolo Enrico IV di Pirandello per il grande Romolo Valli, regia di De Lullo, lì invece di pensare più che non facevo il compito in classe e sono rimasto folgorato da questa storia e dallo spettacolo straordinario. Credo che chiunque di noi sia stato toccato da Pirandello in qualche modo. Anche perché lui, è per questo l'attualità di Pirandello, perché lui parla dei temi di tutti noi, delle sofferenze, cioè lì c'è il tema della follia, che è naturalmente influenzato dall'esperienza della moglie pazza, cioè già per esempio i ritratti che vediamo nel volume ci danno già questa immagine di una donna sofferente che poi finirà in manicomio. Bellissimi sono anche i ritratti di Luigi, che era di straordinaria bellezza. Eh sì, è una figura importante questo pizzetto. Sì, che non accetto il mio. Gli occhi penetranti, no? Sono di forte impatto visivo. Sì, certe volte può essere un diavolo o un angelo, non lo sai quando lo guardi. Quando lo guardi non lo sai, devo firmare qualcosa, un contratto col diavolo o con un angelo, non lo so. Crea un po' d'ansia. Sì, la nipote diceva che aveva lo sguardo mefistofelico. È vero, è vero. E quindi anche, d'altra parte, tutta l'epoca è anche un'epoca per tanti aspetti perturbante. La foto poi oggi noi lo continuiamo a sperimentare giorno per giorno con i suoi significati multipli, con la sua capacità di metterci non solo in quel momento storico, ma in tutto quasi il passato e il futuro di quei personaggi, è veramente un linguaggio rivelatore, e nello stesso tempo è un romanzo iconografico che tappa dopo tappa, fotogramma dopo fotogramma, e lo ci consente di ripercorrere itinerari anche in parte sconosciuti. Sara, perdonami se ti interrompo, però insieme a te c'è anche Enzo Zappulla, che insomma che è il presidente dell'Istituto di Storia dello Spettacolo siciliano, e voi di storia ne avete veramente tanto, una terra straordinaria. Viene sempre alla cronaca certe volte per cose che non assomigliano per niente alla Sicilia, e questo bisogna urlarlo. La Sicilia è una terra da nulla togliere a questa nazione straordinaria, perché io comincerei sempre con l'inno nazionale la mattina appena svegli, ma la Sicilia, ragazzi. Ma poi c'è un patrimonio di scrittori d'eccezione, veramente, di grande modernità. Sara, ma lo farete anche in Italia? Scusami, perché una cosa del genere, perché dobbiamo andare per forza subito a Belgrado e a Praga? Ok, la settimana cultura italiana, ma torni qui? La facciamo una giornata? La facciamo a Villa Torlonia. A Roma? Qui a Roma? A Roma, sì, e lo facciamo a novembre, il 25 novembre. È il compleanno di Roberta Bellini al mio fianco, questa grande attrice doppiatrice. Per cui potete chiamarla per fargli leggere qualcosa di Pirandello e festeggerà così. Verrò anch'io, dai. Siamo vicini anche alla Casa Natale, perché in via Bosio, eccetera. Ecco, è un modo anche quello per ricordare attraverso letture, appunto. Quindi va benissimo la proposta, attraverso letture. Ci siamo condannati da soli, Roberta, abbiamo detto ormai che ci siamo, esatto. Non possiamo tirarci indietro. Ci sono dato questa grande mostra che anche oltre che il percorso di famiglia, epoca eccetera, anche quadri di Fausto, ricordiamoci che l'altro figlio è stato un grande pittore, uno dei maggiori della scuola romana. Stiamo scoprendo delle cose, ammetto che sto imparando come sempre. Fausto era un grande pittore, Pirandello. Fausto, vedi una famiglia intensa, vera. Sì, e tutti hanno sofferto naturalmente durante la loro vita, e quindi stavano un po' nell'ombra, sono esplosi ora in questi ultimi decenni, proprio per quella distanza cronologica che ci consente non solo di apprezzare la grandezza ormai riconosciuta in tutto il mondo di Pirandello, ma anche quella dell'intera famiglia. Per questo noi abbiamo intitolato mostra e soprattutto il volume I Pirandello. La famiglia e l'epoca per i maggi, I Pirandello, perché d'ora innanzi non si può dire solo Pirandello, cioè Luigi, ma l'intera famiglia, perché sono tre grandi artisti, Luigi, bene. Stefano e Fausto, Fausto che ho imparato, sì, da poco. Sì, di dimensione veramente straordinaria. Fausto è uno dei più grandi pittori della scuola romana, Stefano un commediografo e anche un romanziere, ha scritto questo Timor Sacro. Sarà l'occasione per vederli anche in scena, perché insomma credo che non sono, sì, stati, ecco, messi quasi mai in scena, almeno per quanto mi riguarda. No, adesso no, può essere un'occasione questo volume, ecco, per capire la loro scrittura, per penetrare i loro viaggi, i loro rapporti, le novità, eccetera. Per esempio, dico, non so, vediamo che Pirandello è stato al Cairo, è stato a Praga, cioè, beh, di tutto questo non si aveva notizia. No, ma infatti questa cosa è filologicamente meravigliosa, insomma, grazie davvero. Sara, ti ringrazio tantissimo, perché è bello parlare della nostra cultura, parlare della nostra nazione attraverso questi grandi uomini che l'hanno resa tale e poi intonati perfettamente alla nostra trasmissione. Cara Sara, sai perfettamente, grazie, come raggiungere me e Roberta Bellini. Grazie, che... Sara. Grazie a voi. In bocca al lupo. A Villa Tornò. Aspetto l'invito, aspetto l'invito. Grazie, Sara, un abbraccio forte, grazie. Lavoro, grazie. Grazie Sara. Arrivederci. Bene, anche questo abbiamo imparato, hai visto? Certo, come no. Tante abbiamo messo cose in fila. Ma famiglia Pirandello per me era Luigi. Sì, infatti è tu basta. Pensa a questi poveri figli a crescere all'ombra di questo grande, sì, uomo. Sì. Va bene, noi andiamo un attimo in pausa. A tra pochissimo cominciamo già ad ascoltare le prime voci di questi giovani che si alterneranno a questo microfono. Chiedo a Roberta di rimanere qui con me. Come no? A tra poco, Radio 24. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 14:47 minuti, siamo sempre in compagnia di Roberta Bellini, alla quale ho chiesto di rimanere al mio fianco. Sì, grazie. Abbiamo contenta. Gestito anche questa telefonata e abbiamo scoperto cose nuove, non pensavamo che c'era Luigi Pirandello, e invece, esatto, questa bellissima mostra e questa famiglia molto molto intensa. E grazie di rimanere al mio fianco, Roberta, perché cominciamo ad ascoltare questi ragazzi che si alterneranno a questi microfoni. Cominciamo con il maschietto, che so, questa particolarità che tu l'altra settimana eri stato già scremato per essere presente, ma c'era il matrimonio tuo fratello e tu hai detto, ed è pure il testimone, ha detto non vado al matrimonio mio fratello, vengo a fare il provino. Ero spaccato in due, quindi no, sapevo proprio. Sì, ma dopo eri spaccato e basta, se non andai. Sì. Gentilmente Mauro, esatto, Megoni, che si occupa direttamente di questa storia, ha capito la tua buona fede, siccome sei stato almeno bravo dal punto di vista almeno dell'ascolto, quello che abbiamo ascoltato, abbiamo detto no, vabbè, non andare al matrimonio tuo fratello, mi sembra una cattiveria. Da testimone poi. No, ma perdevi veramente, per te la tua famiglia finiva lì. Esatto. Tanti grazie dei messaggi, grazie a Bruracè, eccellenza raggiunta, grazie Roberta, l'unico modo per arrivare alla vetta è essere vetta, dice Dori. Beh, bella sta cosa qui. Grazie. Bella, bella. Qualcuno mi spiega chi è la cagnola, che non lo sapevo, chiedo scusa, lavora qui a Radio 24. Vabbè, speriamo insomma che non se la prenda male, tanto ci hanno unito in questa antipatia quel signore, chi se ne frega. Qualcuno chiede dei sconti, qualcuno chiede quando si può venire, lo diciamo sul nostro sito sempre, complimenti, va bene, invece passiamo a voi. Allora, come ti chiami, nome e cognome? Lorenzo Galli. Da dove vieni? Vengo dalla Toscana, Viareggio. Viareggio. Tuo fratello si è sposato o è già diviso? No? È una settimana, no, no. È partito? Sì, sì, è in luna di miele, quindi... Pure lui doveva venire a fare il polino e mia cognata, adesso un nuovo grado di parentela, quindi, certo, di cui mi vanto. Anche lei voleva fare il polino e voleva lasciare il marito per venire a fare il polino. Vabbè, certo, il fratello, certo, era che... un uomo solo praticamente. Certo, abbiamo fatto la lotta per essere qua. Per passare la prima notte con lei. Va bene! Allora adesso io starò zitto, nome, cognome e il pezzo che porti. Certo. Allora, questo è un pezzo... famosissimo, un pilastro della storia del cinema, I Pinguini. Senza fare drammaturgia, il nome e cognome. No, volevo il dire Marco Mete, diciamo. Ah, vabbè. Perfetto. Allora. Il tuo nome e cognome è il titolo del brano. Esatto. Cattivelli! Scusa, nome, cognome, titolo del brano. Ah, lo devo dire di nuovo. Ok, perfetto. Sì, no, per così rimane la registrazione. Per ah, fare la perfetto, scuola. Scusate. Per allora, carità, sei ancora Lorenzo sotto Galli. Matrimonio. Sì, aspetta, vai. Okay. Lorenzo Galli, I Pinguini di Madagascar. Vai. Cattivelli! I belli uccelli dovrebbero stare nelle proprie gabbie. Se fate così mi offendete. Ed io che ero così felice di rivedervi. Skipper, Kowalski, Rico e il piccolo tenero soldato. Boop. Gli umani mi conoscono come il dottor Octavius Tentacoli, rinomato genetista, appassionato di formaggi e gran benefattore di raccolte fondi sulla radio nazionale. Ma voi mi conoscete con un nome diverso e molto più antico. Un nome che forse speravate di non sentire mai più. Un fantasma, l'ombra di una vita precedente. Io sono Dave. Dave? Dave! Ma voi davvero non vi ricordate di me? Non sono mai stato sposato! Forse voi non vi ricordate di me, ma io non posso dimenticarmi di voi. Beh, ha fatto delle scalette, niente male. Sì, non... delle variazioni, belle variazioni. Interessante. Beh. Quanti anni hai? 23 compiuti. C'è gente che c'ha ancora 23 anni, Roberto. Madonna. Per vergogna. No, porca vacca. Me ne vado. No, va bene, mille complimenti a tutte le voci. va bene. A tutte le voci che ci fanno sognare, una domanda: non avendo Facebook esiste un altro modo per inviarvi un file audio? Non so, citofonami a casa, non ci abbiamo altri modi, giuro, ti prego, Facebook non ci vuole molto ad averlo, ti prego. Signorina, quanti anni hai? 24. Addirittura, sei più grande di lui, sembra tuo padre lui, non si porta bene. La barba. Qualcosa dobbiamo dire. Sembri un po' Jodie Foster, dai. Ecco. Da dove vieni? Padova. Certo, qui dietro. Vedete la cosa bella di questa voglia di esserci in qualche modo? Bella. Da Padova. Bella. Il nostro nord-est è meraviglioso. E fai attrice, insomma, stai studiando anche, ovviamente, che non ci scordiamo mai che... Cioè, i corsi di doppiaggio sì, ma bisogna essere attori poi. Sì, sì, sì. Mi raccomando, non si può essere chirurghi senza aver fatto medicina. Cosa hai portato? Ho portato un pezzo di The Imitation Game, okay. L'ultimo dialogo. Non di Cumberbatch, no, di lei, cioè, immagino, spero. No? No. Di chi è? Chi lo fa nel film? Keira Knightley. Keira Knightley. E allora ti ripresenti nome e cognome e il titolo del brano. Ilaria Fabris, The Imitation Game. Un uomo normale non ce l'avrebbe fatta. Questa mattina il treno è passato da una città che non esisterebbe se non fosse per te. Ho comprato un biglietto da un uomo che oggi sarebbe morto se non fosse per te. Al lavoro mi documento su tante, tante ricerche scientifiche che esistono soltanto perché ci sei tu. E anche se tu avresti preferito essere normale, io sono felice che tu non lo sia. Il mondo è un posto infinitamente migliore perché tu non sei normale. Io penso che a volte sono le persone che nessuno immaginava che possano fare certe cose, quelle che fanno cose che nessuno può immaginare. Ma va bene, la suggestione c'è. Ogni tanto sì. Quelle pause allungando l'ultima vocale sono le cose che sono meno da amare, nel senso che devo dire... che l'altro giorno, ok? Sì. È come quando uno non può tenere magari una frase, una nota lunga, conviene chiuderla in qualche modo, però no, va bene. Poi timbra le finali in una maniera eccellente. Sì, sì, sì, no, va bene, bene, devo dire che la scrematura è sempre efficace, caro Meconi. Va bene, alterniamo gli altri, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie davvero, soprattutto della tua passeggiata che ti sei fatta e soprattutto anche papà che ti ha accompagnato, questi grandi papà. Esatto. Bene, allora, eccovi. Allora, alterniamolo col nostro maschietto. Dai, cerchiamo di farvi tutte e due in questo blocco. Manca un minuto e mezzo, come ti chiami? Allora, sono Riccardo, Riccardo Corbi. Da dove vieni, amico da mio? Perugia. Da Perugia, senti, quanti anni hai? Sei 23. 23, ma che strazio. Ma dai, mandate via. Ma i cinquantenni dove sono? Ma basta. Cos'è il nome e cognome, cosa portate e leggilo. Ok, allora, Riccardo Burbi. E questo è l'insegnamento di Lacan. Questo è ciò che intende Pascal quando dice che noi siamo veramente felici solo quando sogniamo ad occhi aperti la futura felicità. O perché diciamo vale più la caccia che la preda, o sta attento a quello che desideri. Non perché lo otterrai, ma perché sei destinato a non volerlo più una volta ottenuto. Quindi, l'insegnamento di Lacan è che vivere secondo i desideri non vi renderà mai felici. Per essere pienamente umani... bisogna cercare di vivere secondo le nostre idee e i nostri ideali, Non certo misurando la vita in base a quanto avete raggiunto di quello che desideravate, ma in base ai piccoli momenti di integrità, compassione, razionalità, a volte anche di sacrificio. Perché alla fine, se vogliamo davvero misurare il significato della nostra vita, dobbiamo dare valore alla vita degli altri. Ma chi assomiglia dei nostri colleghi? Ciao, ciao. Assomiglio? Sì, sì, sì. Male. No, bene, no, bene che sei giovane. Sicuramente un bravissimo collega, però sì. Sì, perché insomma già il fatto di assomigliare a qualche collega ben venga. C'è qualcuno che mi strilla che non sapevo che era la Cagnola. Io Cagnola stavo pensando a qualcuna di televisivo, perdonate, so perfettamente chi è. Ma rilassatevi, sentite la trasmissione, sono cambiate, che palle. Lo faccio come Cruciani, ma santa miseria. Dobbiamo chiudere, resta qui e ascolteremo gli altri tre nel prossimo blocco. Complimenti. Grazie. A tra poco, voi sanate. Soundcheck, il suono della musica, di DJ Telesforo. Vi aspetto allora al Soundcheck di Radio 24 il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 in collegamento con The Groove Master Studio per un pieno di grande musica. Tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Sanatomi. Bentornati signori miei, 15 in punto, si stanno alternando ai nostri microfoni questi giovani talentuosi, devo dire, e vicino a me coadiuvato da Roberta Pellini, che di talento ne ha da vendere. Grazie, ciao a tutti. E speriamo che si attacchi questa cosa, sì, no Robertina? Dai. Tanti messaggi di complimenti, eccetera. Qualcuno chiede, ci sarà qualcuno che presenterà anche un monologo tratto da un film italiano, di un attore italiano, come indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto? Beh, il grande Gian Maria Volontelli, c'è ancora più difficile. Paura vera, però sì, non è male. E qualcuno dice Padova al nord-ovest è meraviglioso, è vero, sì, ma c'è talmente tanta nebbia che i bus si esibivano al casello autostradale, quindi ogni tanto si lasciano andare. E poi c'è Torpignattara presente, vabbè, eccetera. E tanti complimenti anche a questi ragazzi che si dimostrano di essere bravissimi, va bene. E allora, eccoti. Ciao. Ciao. Sono Anna. Vengo da Genova e... Quanti anni hai, Anna? 23. Ma perché sto 23 oggi? Che vabbè, è un numero fortunato. Signori, però, giocatevelo, perché insomma, sì. Sto 23 sta tornando. Mi sono dimenticato quando c'avevo... Tu ricordi quando avevi 23 anni? Stavi al gruppo 30? Sì, ho iniziato il corso del gruppo 30 a 23 anni. Che palle! Ah, tu 23, giusta. Porta fortuna. Giusta, sì. Anna, 23 anni. Sono molto emozionata. Sì, ti faccio delle domande di altre domande. I confini delle Marche, per esempio. Sono difficili, anche per me, guarda. Oddio, tu sei diplomata, sei... Sono giusto domani mattina mi laureo in traduttori e interpreti. Ah, lo vedi? Puoi essere anche una futura adattatrice nel mondo del doppiaggio, che sono fondamentali per noi. Sì. Per noi sono fondamentali. Esatto. Ogni giorno. Sì, che ti mandano una puntata del Trono di Spade di lunedì e venerdì va in onda, per cui devi tradurla, adattarla e doppiarla. Infatti, e missarla. Il tema della mia tesi è proprio un adattamento di un film spagnolo. Quale? Manolito Gafotas. È stato poi tradotto. Uno dei più grandi film che io abbia mai visto. Cioè, ho visto tutto, ma Manolino Gafone non l'ho visto. È il più sconosciuto. Però bello. In tutta Italia, però sono conosciuto. No, ma anche in Spagna, devo dire che c'è il suo perché. No, in Spagna è molto conosciuto, però ti ringrazio. In Italia è uscito solo il libro, però, io ho provato a lanciare il filmato, vedremo se avrà successo. Non devi riprendere il conduttore in questa maniera, già ci penso i miei ascoltatori a massacrare. Va bene tesoro, mi se scusi. Ti sei tranquillo. No dai, scherzi. E mi ripeti il tuo nome e cognome? Anna Barabino. E porto il monologo di Bridget Jones. Vai. E così presi una grande decisione. Mi dovevo assicurare di non ritrovarmi l'anno prossimo mezza ubriaca ad ascoltare FM Nostalgia, le canzoni più belle per gli ultra trentenni. Decisi di riprendere in mano la mia vita e di cominciare un diario in cui scrivere tutta la verità su Bridget Jones. Nient'altro che la verità. Decisione numero 1. Ovviamente perdere 10 kg. Numero 2. Mettere sempre a lavare le mutande della sera prima. Ugualmente importante. Trovare un ragazzo dolce, carino, con cui uscire. Evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti. Alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. E soprattutto, non fantasticare su una particolare persona che incarna tutti questi aspetti. Giù Pizzo era dentro di te mentre lo facevi. Eh sì, c'ha questa brillantezza nella voce, sì, eccetera. Ma va bene, signori, non si nasce imparati, si cresce. Roberta ne come sa qualcosa, no. Insomma, è entrata in quella piano, fucina, sì. Di poi soprattutto a me è servito tantissimo ascoltare i grandi. Io entravo in sala e assistevo solo per ascoltare i miei colleghi bravissimi dalla Di Meo. Infatti per me oggi è la prima esperienza, il primo passo. Va bene, ti auguro. Di fronte a una grande emozione, perché per essere davanti a grandi come voi, per me d'età, si riferiva all'età, ovviamente. Si possono anche imparare. No, guarda, ovvio. Noi ci mettiamo sempre il segreto è entrare in sala o su un palcoscenico come se fosse la prima volta. O sceglio come se fosse l'ultima, però magari una volta poi sarà veramente l'ultima, non conviene pensare che sia la prima volta, però in qualche modo. La prima. Sì, ma guarda, ma per noi è la stessa cosa, come diceva all'inizio Roberta, il cuore, non devi finire mai di mettercelo dentro, anche quando ce ne avrai 43 e magari ci incontreremo, magari ti dirige Roberta e dice chiamate questa ragazza di Genova, quant'è che vive perché a Roma. No. Tra l'altro avevo portato un pezzo molto più emozionante, divertente, poi... Hai virato. Ho virato per una questione più di attacco, devo cambiare, fare voci diverse che magari... Va bene, dai, ci sta, viene. Ci sta. Sei già qui, è già questo... Ci ho provato. Ma sì, ma scherzo, poi nessuno può essere giudice di nessuno. Mi dissero la prima volta, non farei mai questo mestiere. Eccomi qui. Per cui, anche se non dovesse andare benissimo, no, eccetera... Ma dissero? Ma ci sono tanti posti... Tanti posti alle poste, scusa il gioco. Tanti posti alle poste. perché non, vai lì? Non vai lì a lavorare? Capito? Per cui, guarda, va bene così, tesoro. Eccoci qua. Altra... Ciao. Oh, un gineceo qui, tu, circondato da bellissime donne. 23 anni? No, 28. Oh, cominciamo ad avvicinarsi fino a questa. Giulia Melis, vengo sarda. Da Milano, papà era sardo, mamma romana, Melis. Tipico cognome sardo, esatto. Difficile, poi la dizione sarda è l'unica difficile da togliere. Sì, da mandare via, da mandar via. Però mamma romana e io nata e cresciuta a Milano, per ma cui... sto tornando a Roma a vivere, quindi... Perché non si capisce più come parla. Esatto, che lingua parli? Ibrido. Adesso vivi e torni a Roma a vivere. Sì, sì, esatto. Sei... Non ho mai vissuto a Roma, la famiglia da parte di mamma vive qui. Però il tuo uomo vive qui, sicuramente, c'era un fidanzato. No. Non è lui che ti ha convinto? No, un uomo, no. Benissimo. Vabbè, peccato che ci sono le fotografie da mandare, altrimenti potevamo utilizzare questi microfoni anche per cercare un partner. Ma non è la trasmissione adatta. Allora, mi ripeti il tuo nome e cognome e cosa porti? Sì, allora, Giulia Melis, Dio esiste e vive a Bruxelles. Bellissimo. Dovrei parlarvi di me. Non saprei cosa dire. Un giorno ero qui da sola quando mi si avvicina un tizio. Era uno di quelli che dormono su un pezzo di cartone. I suoi occhi erano due grossi bulbi rossi versi al centro di un mucchio di carne. E poi un odore di alcol, carogna, traspirazione, urina. Come l'odore di un cammello lasciato a morire in una distilleria. Mentre mi si avvicinava pensavo che forse mi avrebbe chiesto dei soldi o avrebbe tirato fuori dai pantaloni un coltello o il pisello. Queste cose succedono a volte. Ma non ha fatto niente del genere, mi si è solo avvicinato. E gli occhi mi bruciavano un po' per via dell'odore. Ma gli ho sorriso. Era un riflesso automatico. E poi mi ha parlato. E la sua voce aveva il suono di 30 uomini intenti a spaccare noci. E mi ha detto: mia cara ragazza, la vita è come una pista di pattinaggio, sono in molti a finire gambe all'aria. Sono in molti a finire gambe all'aria. E quella pillola di filosofia da 4 soldi mi si è fermata in testa. E quando mi alzo la mattina e mi guardo allo specchio non riesco a fare a meno di pensarci. Bene, utilizza bene il microfono, signorina. Respiri, le cose, ecco, respiro, il doppiaggio è cosa importante. Grazie. Insieme alla recitazione, all'impostazione, eccetera, ovviamente saper utilizzare aiuta, il mezzo. Si aiuta anche con il corpo, perché sì. Le mani, no? Perché adesso aiutavano sta a memoria, poi tu l'hai fatta a memoria. Sì. Questa. Tu hai fatto un'accademia, qualcosa? Sì, sì, io a Milano mi sono diplomata in una scuola di teatro, poi ho fatto anche doppiaggio e poi ho studiato anche recitazione cinematografica, insomma. Sto prendendo proprio questa strada a 360 gradi. Ci provo. Brava, va bene, complimenti. Grazie. A tutti e due. Bene, allora ecco gli ultimi due, ma soltanto per questa domenica. Vedo un altro 23enne sicuro, forse di meno. Assomiglia un po' a Michele Zarrillo, 20enne. Sì. Peccato che non siamo in diretta, Mauro, Facebook, è vero? E allora, cominciamo con il maschietto, visto che abbiamo avuto due voci femminili. Eccoti qua. Emozionato, immagino, anche tu, vero? Abbastanza. Ma dai, ci sta. L'importante è mettere l'emozione all'interno delle parole che si dicono. Esatto, in veicolarla. Modo. Esatto. Mettili in macchina. Come ti chiami? Mi chiamo Furio Duratorre e ho 23 anni. Ma e sono di Roma. Ce l'hai detto? Al numero. Ma lo fai apposta? Ma non lo sapevo. Porca vacca. Giuro. 23 anni, sei di Roma? Sono di Roma. Ho già studiato teatro per diversi anni e ho cominciato l'Accademia del Doppiaggio da qualche anno. E da 3 anni sono anche lo speaker della mia radio universitaria. Oh, quindi, quale università è? La Sapienza? Dove sei? Roma 3? No. Luis, dove sei? Luis. Allora Luis, sì, conosco la radio anche lì, ogni tanto mi capita di passarci. Sono 3 lauree alla Luis, io, insomma, scherzo. Però la frequento in qualche modo, sono dei corsi paralleli, dei masterclass molto interessanti. Cosa hai portato? Nome e cognome, cosa hai portato? Allora, ho portato un monologo dell'attimo fuggente, il monologo che dà proprio il titolo al film, quindi... Nome, allora, cognome e il titolo. Furio Duratorre, l'attimo fuggente. Cogli l'attimo, cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Li avrete visti mille volte, ma non credo che li abbiate mai guardati. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni come voi e invincibili come vi sentite voi. Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare anche un briciolo del loro potenziale, perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite. Carpe. Sentito. Carpe diem. Cogliete l'attimo, ragazzi. Rendete straordinaria la vostra vita. Va bene. Grazie, c'è avuta. Questa era Carlo Valli su Robbie Williams, se non sbaglio, no? Esatto. Finale. Anche lui ha una voce simile al nostro collega. Sì, sì, sì. Tanto non a noi, che ci frega, diciamo, no, prima. Sotto i 50 non abbiamo timore a dirvi quanto siete bravi. Non ci interessa proprio, no, niente, vero, cara Perlini? Verissimo. Per cui vi auguro ogni bene, ragazzi. Devono, grazie, tremare gli altri. Ed ecco l'ultima concorrente, no, perché è bello, professionista. O che sì, che accederà a questo mondo, me lo auguro, ma quello del mondo della recitazione. Grazie. Il mondo della voce, che non è soltanto il doppiaggio, ovviamente. Come ti chiami e da dove vieni? Mi chiamo Emanuela Ranieri e vengo da Pescara. Pescara, sei abruzzese? Sì, sono abruzzese. Hai portato degli arrosticini per me, Roberta, per cercare di vincere un po' questa giornata? Purtroppo no. Questo è il primo errore. Esatto. Il mio amico Gerry Scotti mi ha sempre insegnato che dai concorrenti, secondo da dove vengono, fatti portare delle cose, senza poi ovviamente aiutarli, però insomma si sta. Vai Pescara, l'Abruzzo gli voglio particolarmente bene, ho tanti amici e noi abbiamo tanti colleghi. Sì, tanti colleghi Ianzanti, la voce ufficiale di Radio 24. Pedicini. Sì. Mannella. Pedicini anche. Pedicini, sì, abruzzese prestato, che lui è pure mezzo campano. Ah, sì. Sì, c'è queste cose, poi vabbè, tante persone. Sì. Allora, cosa hai portato? Io ho portato il dialogo di Porzia con Bassanio nel Mercante di Venezia. Niente, proprio di meno che. Lo vedo molto lungo, sicuro? No, non è così. Solo un pezzo. Solo un pezzo, va bene. Nome e cognome, dillo e vai. Sì. Emanuela Ranieri, il Mercante di Venezia. Voi mi vedete, nobile Bassanio, qui dove sono, così come appaio. Sebbene per me sola non abbia ad ambire desideri d'essere di più di quello che sono, solo per voi vorrei triplicarmi 20 volte almeno, così dice il mio cuore. Essere 1000 volte più bella, essere 10.000 volte più ricca, e solo per essere ancor più da voi stimata vorrei in virtù, bellezza, rendite e amici, eccellere in tesori. Ma questa somma per me è somma di poca cosa, se vedrebbe, per dirla all'ingrosso, una giovane ignorante, senza scuola, senza esperienza, ma fortunata per non essere così vecchia da non poter imparare, e più fortunata ancora per non essere così stupida da non poter apprendere. E infine fortunatissima, perché il suo docile animo si affida a voi per essere guidato dal suo signore, padrone e re. Dovrebbe risponderti qui la Pellini in veste di Elisabeth in qualche modo. Brava, mi sono arrivate un parecchie emozioni. Sì. Grazie. Un po' tatino ogni tanto, ma la voce è importante, le intenzioni. Sì. La grazie. Bella o la brutta voce, le voci sono giuste quando sono le intenzioni giuste. Ogni tanto tendi a stringere un po' la bocca per diventare un po' tatina. Un po' forse così. Sì. No, è proprio la tua impostazione. No, la tua impostazione vocale. No, l'hai fatta bene. L'hai grazie. Fatta bene. Arrivano i nostri commenti, sono tantissimi. La ragazza di Gesarda è stata bravissima. L'altra voce naturale, non dico. La prossima volta, giovani debuttanti con non meno di 53, non più di 55, dice Fabio. Bravo. Vabbè, questo è dire. Marta Cagnola è la compagna di Tom Cruise. Ma perché? Ma che c'entra? Vabbè, ormai è sto tormentone della Cagnola. Oddio. Va bene, grazie ragazzi. Grazie davvero, cuore. In bocca al lupo. Voi restate con noi, abbiamo ancora un altro momento, 10 minuti ancora con Roberta Pellini, poi Franco Fussi e poi un nostro amico, un giovane di 25 anni, un grande imprenditore, visto che la radio è Confindustria, è lui con la sua voce e il suo modo di essere arrivato a un successo grandissimo per dare speranza dei giovani di diventare importanti anche come imprenditori. A tra poco, lui è Andrea Prosperi, a tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori, 15, 17 primi e 11 secondi in questo momento. Roberta Pellini resterà ancora Eccoci. Al mio fianco. Ho fatto entrare un po' in anticipo questo ragazzo, non di 23 anni ma di 25 anni. Ancora sì. Da compiere, quello. Ancora da compiere. Il grande imprenditore Andrea Prosperi, che insomma crea. L'ho chiamato perché siamo amici, con lui faremo anche un corso di formazione vocale a gennaio. Sì. Perché è stato interessante, sono quelle persone che tu dici vabbè l'ammazzo, no vabbè lo amo, no vabbè l'ammazzo, bisogna amarlo, bisogna amarlo, perché lui è laureato in economia e commercio e il suo esempio, a parte che la radio è la radio di Confindustria, per cui mi sembra giusto e intonato, e in più la voce è stata importante, fondamentale assolutamente per come sì. presentarsi, perché si presenta un bambino di 18 anni di fronte all'amministratore delegato di una banca internazionale e magari riesce anche a creare un contatto, un'empatia e anche guerriglia, certo. Perché lui è uno che crea anche questo, la competizione, e per certo. cui era interessante averlo ospite. Conoscerlo, ovvio. Capito? Tu? Grande piacere per me. Piacere mio essere qui una con stima. Voi, molto piacere. Tu hai cominciato a 16 anni a fare il broker, che cosa? Precisamente a 17 anni ho detto iniziamo a fare un po' i pazzi della situazione, no? E lanciamoci questa sfida. Sì, ma ti ha portato ad avere più di 400 persone che lavorano per te. Eh sì, oggi siamo così. Ora, siccome ha un nome e cognome e sta in una radio ufficiale, non possono essere stupidaggini. Vabbè. Allora, può provare tutto questo, veramente, dici, ma santo Dio, tuo padre? No. Mamma? No. No, no. Perché uno dice, beh, figlio di papà, che c'aveva già l'azienda con 388 persone, ne ha aggiunti 12. Oddio, mamma oggi mi ha chiamato e mi ha detto, ma stai in radio? Sì, mamma, di dove sei tu che c'hai queste intenzioni? Di dove sei, di origine? Di Roma, ormai. Ma no, ogni tanto però sì. Fuori queste intenzioni particolari dell'entroterra laziale. Tu mi dici che sono umbro, quindi... Sì, ogni tanto sembri umbro. È vero. Che sembra un po' derivante da lì, può essere. Comincia a rubarmi il terreno a Roma, Andrea, smettila. Qui c'è la grande Roberta Bellini, che è la voce delle più importanti. Onorato. Tra lei e anche le sue colleghe, ovviamente. Sì, certo. Ma con lei stavamo navigando nel mondo della fiction, che anche quello è diventato più importante, il core business, per utilizzare un vostro termine. Finanza. Esatto, core anche business. Perché vengono usati degli attori ormai di cinema. Sì, tu fra Dottor House e tutti e due, AR anche. AR, sì. O IR. Io chiamo AIR perché AIR pronto soccorso. Con Giorgio Clooney. AIR pronto soccorso. Io ero la fidanzata di Giorgio. No, allora sai che c'è? Adesso me la sento, perché lei è Giuliana Margulies. Esatto. Allora sentiamoci un momento della fidanzata di Josh Clooney in IR. Notte intensa. Massacrante. Non mi seguirai, vero? Te ne vai sul serio? Non ho più niente qui. Ci sono io. Parlo del lavoro. Che resta a fare? Io non ti basto. Vieni con me. No, voglio che resti qui. Non posso. Scusa, ma non ne capisco la ragione. Devo andarmene, Carol. Non posso restare. Non voglio svegliarmi da sola domani. Amore. Hai capito? Qui mamma era Fabrizio mia. Temperini, era Josh Clooney all'epoca. Fabrizio. Dopo l'ha preso il nostro caro amico Pannofino. Pannofino, sì. E questa è IAR. Ma quante stagioni ti sei fatta di IAR? Tantissime. Non ci capisci adesso di medicina, qualcosa di più? No. Ah sì, perché poi non solo Iara, anche Dottor House, quindi infatti facendo una cultura. Pure il dottore, no? Manca sì. L'infermiera l'infermiera Patti, hai fatti tutti. Qui Dottor House eri Lisa Edenstein, ed era una dottoressa, sì. Anche lei? Era il capo dell'ospedale, l'amministratrice. Ah, sì. Era un po' cattivella. Sì, era un po' cattiva col Dottor House, però c'era una bella intesa, un'intesa un po'. Fammela sentire questa intesa che c'hai col Dottor House, sentiamocela, la Bellini su Dottor House. Poi manca San Camillo e poi esatto. Abbiamo fatti tutti, vai. Guarda che ti sbagli, ho semplicemente deciso di non condividere dei fatti irrilevanti. Come il fatto che hai mentito. Mi è tornata in mente la sua faccia di quando te lo stavi divorando sulla pista da ballo. Ma non è vero. E lo zio benefattore? Lui sgancia i soldi e il nipote ne incassa i benefici. E tra i vari benefici intendo che lui può ecco mettere... Ecco perché non ti ho accennato al nostro unico appuntamento di più di 2 anni fa. Per la mia maglietta? Perché tu sei un odioso maniaco. Avresti cominciato a farmi troppe domande. Sei stata molto furba. Perché in questo modo mi sono concentrato solo sul paziente. Come te lo sei ricordato? Siamo rimasti a quella festa 10 minuti. È il nuovo piano sanitario? Fatevi il direttore e avrete assistenza gratuita per 1 anno. Tu l'hai memorizzato perché mi sbaciucchiava. Sono fisionomista, va bene. Non le ricordi mai le facce. Non te la prendere con me per la tua umiliazione. Cos'altro pretendi per una stanza privata? Supera la tua cotta. Ma se tu mi hai assunto perché... Perché eri un bravo medico che era stato rifiutato dalla banca del sangue, quindi costavi poco. Mi hai dato tutto quello che ho chiesto, perché una notte io ti ho dato tutto quello che smettila tu mi hai... Smettila di fissarmi il di dietro ogni volta che pensi che non guardo, smettila di spuntare nei ristoranti quando ho un appuntamento e di fare fantasie su di me sotto la doccia. Quella nave è salpata molto tempo fa. L'hai persa. Se ti riferisci al tuo sedere, la metafora più adatta sarebbe quella super petroliere salpata tempo fa. Grande Sergio Di Stefano, mi indimenticato mia, che ci ha salutato. Sì, purtroppo quando lui ci ha lasciati per passare in un'altra dimensione, perché io credo fermamente in questo, ho avuto un turno la settimana successiva e lui non c'era, perche noi poi incidevamo insieme. Lavorare insieme, con una delle rare occasioni. Ed è stato il turno più difficile della mia vita. Credo, persona delicatissima, sì. Meravigliosa. Poi portava il mio stesso profumo. Ma dai, questo normalmente si fa fra amanti, così il marito non riconosce, sì, no? Un profumo unisex buono lo portava anche lui. Hai capito? No, no, no. Poi Luca Biagini credo che abbia preso il suo posto. Sì, Luca, no? Sempre con grande rispetto. Grandissimo, grandissimo attore anche lui. Sì. Tu le segui le fiction? Sì, sì. Diciamo che mi dedico verso le 4 di mattina, mi metto a guardare fiction. Non usi droghe, ovviamente. Diciamolo perché. Non lo dico in pubblico, ecco. Certo, no, ma non credo. Devi essere lucido. Il mestiere che fai non è 2 più 2, 4. Il tuo mestiere spesso è 2 più 2, 6, eccetera. È così. Bisogna così. Fare un po' di cose. Però cinema lo frequenti. Certo, sì. Grande amante del cinema. Okay. Grande amante del cinema. Non ti pensi... E della voce. E della voce. E beh, quella è fondamentale. Per sì, sì, poi sì. Ne parliamo con te nell'ultimo blocco piacere. Della trasmissione. Che stai doppiando di serie ultimamente, a parte queste storiche, insomma? Guarda, ho finito adesso Bones, che è quella delle ossa, serie certo. Storica. Ho iniziato... La 12ª stagione. È finita, sì, adesso. È finita. Sono finiti gli scheletri. Sono finiti. Tempera Sbrenna non ha più nulla da fare. Non c'è più niente, no? Sono finiti, l'hanno preso pure... A prima porta sono arrivati, cioè non... Però bella, ero molto affezionata a questo personaggio. Eh sì, che poi ci cresci insieme perché sono anni, sì. Sono almeno 12 anni che stai in onda. Tanto. Diventano parte di te gli attori che uno fa da tanti sì, anni. Sì, io poi con lei ho trovato proprio delle similitudini. Chi hai carattere? Conosciuto delle persone che hai doppiato? Ma guarda, io in effetti non ho conosciuto... Ho conosciuto solo Noel Beck, Trisha, poi gli altri... Non l'hai mai incontrati? No, cioè, mi avevano invitato una volta a una prima di un film della Theron e a cui poi io non sono potuta andare. Lei, sarebbe sì. Stata l'occasione giusta per sì. Conoscerla. No, io invece cerco sempre di incontrarli, però mi capita sì. Come con Will Ferrell, che sono 28 anni che lo doppio, quando incontro fa, oh! Quello dice, ma chi sei? Ma io sono 28 anni che ho il tuo corpo di fronte a me e tu mi dici chi sei. No, carino. Viggo Mortensen su tutti, quelli con cui ho avuto almeno un rapporto, siamo fumati pure 2 sigarette insieme, insomma, è successo qualcosa. Per cui adesso ho finito Bones. Adesso ho finito cinema. Bones. Puoi dire qualcosa? No, perché non possiamo dirlo, certo, in anticipo. Sì, no, però ho finito Suburbicon, regia di George Clooney con Julianne Moore. E fai ovviamente George Clooney? No. Sì, faccio George Clooney. L'amor la fa panno fino. E poi adesso ho terminato Thor, dove c'è la Kate Blanchett. Non puoi parlare. Non puoi parlare. No, che non posso dire nulla. Ma nel Signore degli Anelli l'hai fatta tu? No, che, ma, no lì non eri tu, no, vero? Lì era Cristiana, mi pare. Cristiana Lionello. Lionello, sì. È vero, perché sì. Io ero il fiode Arathorn lì, per cui quanto ho riso durante quel periodo. Dici che è strano. Perché doppiavamo tutti insieme, la Compagnia dell'Anello era... tutta in sala con Renato Mori, Massimiliano Manfredi, Perino che era Frodo, insomma era divertente perché poi si trovavano delle occasioni per ridere insieme quando Manfredi che doppia Legolas, che per tutti è Legolas, così biondo, orecchie a punta, ha detto attento, dietro la colonna c'è un orco, attaccalo Aragorn! E il direttore fa becaccio, via. Beh, ci sono dei momenti al leggio che quando si inizia a ridere non si termina più. No, quello poi manca un po' d'ossigeno, scusa, quello manca l'ossigeno, sai com'è, per cui lasciate stare. Ci sentiamo anche così il povero Mauro Megoni che scarica in maniera ovviamente non abusiva questi master, anche un Six Feet Under, quella serie Six bellissima. Feet Under, sì, bello. Il protagonista lì, poi fu il protagonista dimenticato di Dexter, lui. Pazzesco, veramente bravo. E tu qui, Rachel. Non mi riprende, ci pensano già gli altri. Santa miseria, ho detto in due lingue diverse da quella tua. Cioè, ma no, non prima hai detto Haul, scusa. Haul. Io l'ho detto che non eravamo in onda. Stupidamente mi hai ripreso adesso, quando la gente non sapeva che io porca vacca, devi stare attento. Porca vacca, ecco, sintonia. Ascoltiamola, Rachel Griffiths. Sai qual è stato il tuo errore? Dovevi sposare Billy. Non è affatto divertente. Dai, è la tua anima gemella. Io sono stato soltanto, come tutti gli altri, un sostituto per Billy. Sarebbe molto più facile per te pensare questo, vero? Non è colpa tua. Siete stati allevati male e siete cresciuti male, come quelle angurie quadrate che coltivano in Giappone. Allora, su questa tua voce, mentre ci sei anche tu dal vivo, ti lascio salutare. insomma, ah, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, poi ci sarà Franco Fussi con un'altra pillola di salute vocale, poi Andrea Prosperi con il quale indagheremo almeno per una decina di minuti su questo mondo del suo bene. Beh, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, perché Robby. È stata veramente un'esperienza esilarante. L'ha detto mia moglie anche quando mi sono spogliata la prima volta. No, bello, grazie. E come ripeto, perché ci tengo tanto, fatta proprio con il cuore, con il tuo. Si è sentito, no? Il tuo è arrivato totalmente. Grazie. Grazie. Robertina, Roberta Pellini, noi ci rincontreremo, speriamo, sì, in qualche turno, presto. Ma tanto non ci fanno mai lavorare insieme, che sempre colonna separata. Prosperi, tu resti qui, io rimango con il dottor Fussi 10 minuti. Con molto piacere. E poi staremo insieme e ci spiegherai come comprare un Ferrari alla Non male, bella strategia, proviamo. Proviamo, qui c'è riuscito. A tra poco, voi sanatomi. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, anche oggi in compagnia del nostro amico, dottore, paziente perché ha accettato di vivere con noi questa avventura di queste pillole di salute vocale. Abbiamo parlato la scorsa settimana di aerosol, come farlo, quando non farlo, eccetera, qualche macchinario utilizzare, insomma, anche per voi che non fate questo mestiere, ovviamente è utile per tutti voi. Oggi invece dicevamo con Franco di affrontare insieme, io ascolto lui ovviamente, di fitoterapia e omeopatia, mi pare di... Sì, è un argomento adesso, che volevamo affrontare. Tanto mi spieghi fitoterapia. Fitoterapia è l'uso delle erbe. Allora uno dice una cosa naturale, le erbe fanno bene, mica è detto. Eccolo. Perché la natura di per sé è indifferente, certo, all'uomo. Siamo noi che dobbiamo essere attenti a quello che prendiamo e prendere l'erba giusta. D'altra parte, oddio, chi si mette adesso in collegamento con noi, l'erba giusta non è quella che pensate, nel senso, per carità, che... potete farne l'uso che volete, non è... però insomma il professore, il dottore qui non vuole alimentare una certa direzione. L'erba di cui parliamo, non voglio svelare chi è il tuo pusher. Esatto, non... dicevo, ho saputo per Radio 24 c'è un pusher fortissimo che è Franco Fussi. Non è così, il dottor Franco Fussi ci aiuta a capire come salvaguardare il nostro apparato respiratorio e soprattutto le nostre corde vocali, per cui la fitoterapia, sì, nel senso che l'erboristico non è che ci aiuta, è un prodotto di per sé buono solo, esatto, perché è naturale, perché l'erba, certo. D'altra parte pure Socrate è morto perché si è mangiato la cicuta, no? Esatto, insomma ha esagerato pure lui, ha sbagliato. Dice fa male la gola, dai un goccio di cicuta per dobbiamo favore. Sempre tenere presente che i fitoterapici sono farmaci, protofarmaci, okay. Ma comunque sono farmaci, cioè sono quelli che dei monaci che sperimentavano le proprietà delle erbe nei conventi, ne hanno trovati alcuni che facevano bene, altri non lo sappiamo perché magari sono crepati. E come i funghi, insomma, esatto. No, più o meno, non è che tutti i funghi fanno bene, ecco. Da cui abbiamo tratto le prime capacità mediche, terapeutiche, esistono tra l'altro dei farmaci estrattivi che sono riconosciuti dalla farmacopea, non faccio i nomi, però sì, sono dei mio rilassanti e dei rinforzanti dei muscoli e dei rinforzanti delle pareti dei capillari nel caso di, per esempio, di emorragie, che sono in realtà dei fitofarmaci, ma li producono delle ditte farmaceutiche, quindi entrano nel programma ministeriale di controllo del prodotto per la commercializzazione, certo. Quindi sono sicuro della purezza e del dosaggio soprattutto, mentre invece il fitoterapico che prendo in erboristeria non passa da questo filtro di antisofisticazione e sono comunque sostanze chiamate integratori alimentari. Di fatto è un integratore alimentare, è anche un concetto sbagliato, perché servirebbe un integratore soltanto in uno stato carenziale, mentre invece il fitoterapico lo prendo per curare o per prevenire, per rinforzare il mio organismo. Ecco, dicevo qualche settimana, una o due settimane fa, avevo fatto questo esempio, che all'inizio dice: ah, guarda, se stai giù di voce c'è l'erisimo e la malva, l'erisimo. No? L'erisimo e l'erba malva. Dei cantanti. L'erisimo è il Sisimbrium officinalis, o erba dei cantanti, che è un buonissimo antinfiammatorio. Allora, se io ho una raucedine legata a uno stato infiammatorio, va benissimo che io prenda anche la decozione con l'erisimo, che faccia comunque... Lo fai bollire a casa tu, lo fai... Sì, oppure l'estratto, la tintura madre di erisimo, 20 gocce ogni due ore. Però devo stare attento che ci sia uno stato infiammatorio, perché se io sto benissimo, esatto, non c'ho bisogno di pigliare l'erisimo. Anzi, addirittura l'erisimo mi può creare... secchezza e disidratazione, quindi mi indurisce le corde vocali, che per noi sarebbe una, che non è il caso, suicidio vocale. Mi può provocare anche tenesmo rettale se ne prendo troppo, cioè non ho la sensazione di andare in gabinetto senza avere feci nell'ampolla. Oh, mamma mia, cosa qua. Io già soffro un po' di colite, Franco, ecco perché certe prima una scena non era la tensione, durezza vocale, e che non dovevo prendere le risi, forse ti ho dato un po' di oddio. Quindi l'erisimo solo se c'è uno stato infiammatorio. Okay. La malva va bene, non è emolliente, ma anche il timo. Non è antinfiammatorio la malva, vero? Sì, è anche antinfiammatorio. Sì. La calendula è anche un antinfiammatorio. E quindi quando ci sono stati infiammatori decotti con infusi vari di malva, tiglio, calendula, eucalipto eventualmente, non la menta, perché la menta è un po' irritante per la mucosa e poi tende a favorire anche il reflusso gastroesofageo. Mamma mia. E un buon prodotto invece omeopatico, in questo caso parliamo di diluizioni omeopatiche, che funziona come defaticante della corda, come protezione del bordo delle corde quando ho fatto uno sforzo vocale, quando ho avuto un periodo di surbinage vocale, quando ho avuto una lezione intensa, oppure quando ho fatto una prestazione vocale, canora o recitata particolarmente impegnativa, alla fine defaticare la corda con l'arnica montana, certo, che appunto la usiamo anche come contro i traumi, no? Delle, certo, articolazioni, e quindi anche in questo sono quelle caso pilloline sempre sono granuli omeopatici, quelli che non devi toccare, quelli, sì, quelli difficilissimi, che cascano nella, sì, una cosa, oppure esistono anche in gocce, per carità, o in compresse da sciogliere in bocca o in fiale. Questa è una cosa bella, cioè alla fine magari di uno spettacolo, di una lezione di 5 ore a scuola eccetera, come defaticante, mentre invece come preparatore one shot, oppure se ne prende sempre tante al giorno per, Di solito si usano diluizioni basse perché abbia azione rapida, questo è il concetto omeopatico, per cui il giorno dopo non ce n'è bisogno, insomma, di continuare. No, sempre dopo la fatica, a meno che non ci sia una proseguo continuità della, certo, della e per difficoltà. Salvaguardarla invece a livello fitoterapico, se prima di cominciare a livello preventivo, sempre a livello omeopatico, la Rontrifilum è un buon tonico per dare energia alla corda vocale, piuttosto che prendere magari creatinina che poi vedremo, certo, quando parleremo degli anabolizzanti, essere poi alla fine degli induritori della corda, perché aumentano la massa muscolare, certo, anche oltre a dare più energia. Sarei quindi, più bello, ma senza per un voce. Un soprano leggero magari non è proprio il caso. No, esatto, non è il caso. Per cui c'è anche questa forma, insomma, per prevenire, insomma, per aiutare. Poi esistono anche rimedi omeopatici per quella quotidiano, che è anche questo, prima della prestazione. Prima della prestazione. Una mezz'oretta prima della prestazione. Prestazione anche canora vocale, signori. Io ho sempre paura di chi si collega, vocale, che sente erba, prestazione, prima della prestazione, magari confonde un po' le idee. Come anche per l'ansia, sempre l'ansia da prestazione. La prestazione, ma prestazione professionale vocale. Il gelsemium è un rilassante, e l'ignazia anche nei periodi di stress, anche personale, emotivo. Sono dei rilassano, ti aiutano ad affrontare di tensione, sì, che sì, poi anche per chi magari deve affrontare una cosa molto importante, una vendita, sì, importante, un'acquisizione, sì, importante, uno spettacolo importante, un incontro importante, magari può aiutare. Ora ovviamente non possiamo ripeterli all'infinito perché ci mandate messaggi, come ha detto, non ho capito, allora ci sono dei podcast che voi potete riascoltare la trasmissione quando volete, alla fine di questa trasmissione ovviamente potete già scaricare i podcast sui social media che conoscete perfettamente, anche sul sito di Radio 24, per cui tornate indietro, ascoltatevi bene i nomi di questi farmaci, perché farmaci, sono comunque, sì, farmaci, sì, dei rimedi che possono aiutarvi. Possiamo anche aggiungere tutti quei rimedi, sia fitoterapici che omeopatici, che hanno un'azione drenante, cioè che quindi decongestionano la corda vocale, che magari è congestionata perché ho cantato troppo, oppure ho uno stato edematoso iniziale, oppure sono in periodo premestruale, quindi io trattengo liquidi e le mie corde sono più gonfie. Allora avere un'azione drenante mi permette di alleggerire la corda e quindi di farla funzionare meglio. Dal punto di vista fitoterapico, tutta la classe delle bromeline, quella enzima estratto dal gambo dell'ananas, che ha appunto un'azione antiedemigena, e anche nel periodo premestruale, per esempio, viene usata. Sì, io ti ascolto volentieri, sì, ma non mai guardato con un'aria. Dalle cantanti. ti ringrazio per aver distolto lo sguardo su di me, perché dico con tutto il bene, magari mia moglie che fa l'attrice, ecco, posso dirlo a lei. Insomma. Come esperta. Esatto. E invece, dal punto di vista omeopatico, sempre drenanti e antiedemigeni, sono l'apis mellifica, che è la, la puntura dell'ape in pratica, no? Ah, diluizione omeopatica. Che l'ape fa bene, la vespa fa male. La vespa fa male. Oh, ma... come si fa a riconoscere la vespa dall'ape? Quest'estate ho sentito due punture. Però ho detto tranquillo, perché era se un'ape ti fa bene. Sì, è vero che se è un'ape che va in questa cosa. Sì, sì, no, ma è verissimo. Io conoscevo un apicultore sì. che è ormai centenne, tra l'altro. Grazie alle punture. Grazie alle punture, guarda, non ha avuto un problema reumatico. Lui diceva che le punture dell'ape gli facevano benissimo ai reumatismi. Capisci? Però balla riconosce tu un'ape da una vespa. Cioè, io riconosco se è un motorino, cioè la marca la riconosco, ma sempre strisciate, senti sempre dolore. Perché una dice muore dopo che ti ha fatto la puntura, l'altra no. L'altra no, però. Insomma, magari devi è guardare. Più dolorosa, esatto. Sicuramente più dolorosa quella della vespa. Comunque. Sì, e chiedergli come stai? Stai morendo? Allora sei un'ape. Vabbè, comunque, no, scusate queste digressioni, ma giustamente bisogna essere anche un po' leggeri. Ebbene, caro Franco, abbiamo terminato anche questa pillola di salute vocale con grande leggerezza e semplicità. Vi ripeto, se volete seguire questi consigli, potete riascoltare quante volte volete i nostri podcast, che sono molto scaricati sulla pagina di Radio 24 su Voice Anatomy. Bene, signori, grazie Franco, alla prossima settimana con un'altra pillola di salute vocale a sorpresa. Grazie a voi. Grazie Franco, grazie. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferlo! Voice Anatomy. Bentornati signori miei, le 15:45, quasi 46, dopo la pillola vocale sempre molto utile di Franco Fussi, sto ospitando Andrea Prosperi, che classe 1992, vero? Eh sì, eccoci qui. Laureato in economia e commercio e diversi master alle spalle. Allora, master. Facciamo un attimo Radio 24. Cosa ne pensi della situazione economica dell'Italia di oggi? Pino, che devo dire? Non sono Barisoni, però. Devo dire che la situazione italiana di oggi è particolare. Particolare perché siamo passati per questa crisi e adesso invece si inizia a sentire un po' di aria di cambiamento, no? Le persone vogliono ritornare a fare, vogliamo ritirare fuori questo orgoglio italiano. Tu non hai mai perso questo? Mai perso, mai perso. Ma tu quando ti è venuto in mente? Tu c'hai 25 anni. Sì. E come reagiva la gente che vedeva un ragazzino di 18 anni parlare dei loro investimenti? Sì. Guarda, te la riassumo in una mia esperienza personale molto simpatica, perché io all'inizio della mia attività lavorai anche in Abruzzo, nelle Marche, e una persona un giorno mi rispose mentre io stavo facendo la mia trattativa tutto impegnato, mi fa: scusa, me la spieghi una cosa? Ma perché tu che puzzi di latte mi spieghi a me degli investimenti? Là avevo capito un po' che c'erano delle difficoltà da sorpassare. Sì, perché non è la voce, la presenza, l'età è sì. fondamentale, sì, però sei riuscito a farti seguire. Sì. E hai preso un'ispirazione da qualcuno per tutto questo? Sì, sì, ho preso ispirazioni da tutti gli imprenditori che oggi stanno facendo la differenza. Non nascondo, ho letto migliaia di biografie cercando proprio di percepire cosa avessero queste persone per fare la differenza, Steve Jobs e tutti quelli che hanno cambiato un po' il nostro mondo negli ultimi 10 anni. Tutti sognatori però. Tutti sognatori, come me. Bisogna sognare sì. e poi realizzarli in qualche modo. Assolutamente no? Sì, assolutamente sì. Diciamo che tanti dicono non vivere d'illusione, ma cosa non viene fuori se prima non lo immagini? Nulla, niente. Nulla. Quindi... Ma quando hai cominciato a immaginarti così? Cioè uno da piccolo dice, boh, fa da grande, l'aerospaziale, voglio fare l'astronauta, fa il calciatore, no, voglio fare l'imprenditore, voglio fare... Diciamo che ci sono stati degli incontri con delle persone molto influenti che mi hanno veramente influenzato a fare questa attività, mi hanno rapito la testa, il cuore e la voglia di fare. Il tuo film di riferimento è Wolf of Wall Street? Qual è? Diciamo che... Non è La vita è meravigliosa di Frank Capra, cioè, c'è anche quello, però bisogna vedere. Perché... Diciamo dai che la nostra attività è bella, però il lupo di Wall Street lasciamolo a Leonardo DiCaprio. Esatto, che è un po' estremo, no? È ovvio. È un po' troppo estremo. Yacht, belle donne, droghe e quant'altro. Dai, dai. No, non va bene. No, no, tu sei un gran lavoratore. Tu sì. adesso questo, quante aziende hai? Attualmente noi abbiamo nella nostra holding... Già il fatto che dice noi mi piace molto. Sì, non sono io, è il mio gruppo che mi porta avanti. Nella nostra holding abbiamo ormai... Seguimi i calciatori però, quello dice no, ho segnato io la squadra che mi ha permesso di andare in gol senza il mister, non avrei mai potuto. Perché è giusto. È così, diciamo che abbiamo 13 aziende che portiamo avanti, tutto il nostro gruppo aziendale, e devo dire che tutto quello che abbiamo fatto è veramente grazie a tante persone che hanno dato a me fiducia, perché senza di loro, senza altre persone non si fa nulla. Praticamente questa tua ospitata qui nella mia trasmissione, che parla di voce in tutte le sue dichiarazioni, servirà come trampolino di lancio per andare ospite a Radio 24 dal lunedì al venerdì. Praticamente mi stai veicolando per questo. Ma perché mi hai beccato una strategia e me l'hai detta anche perché... Adesso abbiamo sputtanato, abbiamo detto. È finita ormai. Ma era molto interessante per me riuscire anche a dare a tanti giovani che ascoltano questa radio non solo la possibilità di capire che potrebbero entrare in un mercato importante dell'attore, la recitazione, il canto, la vocologia, anche perché vedete in questa trasmissione veramente la esamina in tutti i suoi meandri. Assolutamente. E infatti ero curioso di come un bambino riuscisse a rapportarsi a 18 anni, a 16 quando hai cominciato con amministratori delegati importanti, con la voce di un bambino. Con la voce di un bambino, il corpo di un bambino, per riuscire a convincerli, a portarli sulla tua strada. In giacca e cravatta, però sempre un bambino. Sempre in giacca e cravatta, questo è perché l'abito fa il monaco allora. L'abito fa il monaco in prima vista, sì. Diciamo che al primo appuntamento non hai mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione. Anche perché se fossi un uomo puoi arrivare col cascolle tranquillo, eccetera, ma essendo un ragazzo di farti vedere nello stesso identico modo. Bisogna dare valore all'immagine. Come chiedo sempre ai miei colleghi, qual è stato il tuo, molto Marzulla questa domanda, ma lo tuo sliding doors qual è stato? Dove hai capito? Ok, farò l'imprenditore, avrò successo, ok, questo è il mio mestiere. Quando ho compreso che se volevi fare qualcosa dovevi crederci prima di tutto tu, al di là di come potesse andare, perché intanto non sappiamo come va a finire, però uno ci deve credere dal primo giorno. Ma la prima botta forte è stato un successo o un insuccesso? Un insuccesso potente. Meno male, quello deve essere. Quello deve essere. Sono stati dei momenti veramente duri. Anche se devo dire che... Cioè, detti da un 25enne veramente non si può sentire, però va bene, ci sta. Anche se devo dire che ho avuto un balzo, diciamo, di genio, di fortuna, perché ho compreso subito quali sono state le cose che potevano fare la differenza, cioè la voce, la formazione. Ogni mia gioia, ogni mio successo è passata dalla mia voce, e quindi ho compreso che devo sviluppare quel lavoro lì, devo sviluppare le mie capacità di comunicazione. Qual è stata la tua prima macchina che hai avuto e ti sei comprato con i tuoi soldi? La mia prima, allora, io prima di tutto ho avuto un Vespino meraviglioso PX a marce. Okay. Molto vintage, anzi, certo, era vintage. All'epoca mia invece c'era quello. Per te già vintage, invece per me c'era quello. Poi la cosa bella è che andavo dai clienti parlando di investimenti e mi dicevano: ma scusa, ma tu parli di investimenti? Hai la Vespa? È vintage. Certo. È vintage. Adesso ti ho visto arrivare con una bella macchina, devo dire. Sì, crea tu nel tuo sito, poi ci parli, no, con la gente all'interno di questo Ferrari. Però la cosa è che non fai lo sborone, come si dice da queste parti, ma lo racconti in modo tale che dici: ok, ho 25 anni, ci sono riuscito senza rubare niente, se non staresti attraverso questi microfoni. Assolutamente. Potete riuscirci anche voi. Il mio messaggio... Senza avere un papà che fa questo di mestiere. Assolutamente. Soprattutto. Il mio messaggio è: guarda, ho ottenuto questo e questo è un'accettazione che si può fare. Quindi provaci anche tu, datti una mossa, vedi quello che faccio, rubami quello che ho fatto fino ad oggi. Rubami la macchina. No, quella no. Porca miseria. No, quella no, assolutamente. Okay. C'è ancora il sudore sul tetto, stai buono, non me la rubare adesso. Però è questo che può essere interessante, che sai, quando vedi un ragazzo così giovane, è ovvio che il primo istinto sarebbe quello di fare una riga. No, non voglio istigare nessuno, no, ma dico quello che uno può pensare, cerchiamo di essere anche realisti. Però nello stesso momento invece a me la curiosità che mi ha mosso è dire come ha fatto. Cioè come con grande intelligenza, grande dedizione, grande lealtà, grande trasparenza. Perché altrimenti non staresti, ripeto, attraverso i microfoni di Confindustria a raccontare queste due 13 aziende. Cioè avessi giù la prima telefonata e quella dell'ufficio delle entrate, dire, siamo anche vicini da qui, quindi non è un problema. Il Ministero del Tesoro, questo signore alla Ferrari bilanci, Andrea Prosperi, nome e cognome. Bene. Questo è, senti, che c'hai in mente per il tuo futuro adesso? Che vuoi fare da grande? Soprattutto. Che è una giusta domanda. Diciamo che adesso secondo me è l'inizio. Ho capito che si può fare. Adesso iniziamo a fare. Ecco, questo è solo, questo è soltanto l'inizio. E questo è soltanto l'inizio. Quanto mi piacerebbe dirlo come te, Paolo. Ma piano piano. Tra 30-40 anni, santa miseria, c'ho qualche anno più di te. Do parcheggiata da 500. A proposito, qua fuori. Ok. Accanto alla rossa. Accanto a quella che vanno, vedranno a camminare me e te verso quelle due macchie e diranno: beh, Pino monta sul Ferrari. Sicuro. Invece cioè, vedi che Pino monta sulla 500. Oppure quello è il suo autista. Quello è il suo autista, sì. No. Ripeto, tutto quello che stai facendo lo stai facendo con grande Grazie. Dedizione, con grande affetto. Vedo anche le persone che lavorano con te e per te, ed è giusto che tu dica sempre noi, perché noi porterai ad essere la squadra vincente in tutti i campi. Siamo un gruppo unito e veramente si dice che quello che muove l'economia è la fede. Queste persone hanno pienamente in fede in me e stiamo ottenendo grandi risultati. Parli come Papa Francesco praticamente, però cioè no, chi ha fede in me. Mi manca la veste, però. Esatto, ma qualcuno dovrò, come dice Woody Allen, mi sembri Dio, beh, a qualcuno dovrò pure ispirarmi. Ma sì, assolutamente. Mia nonna me lo diceva, fa il sacerdote, quindi c'è la chiacchiera. Nonna dice c'è la chiacchiera, fa il sacerdote, cioè, quelli che tuonano dal pulpito. Va bene, senti Andrea, insomma, mi piaceva scambiare una chiacchiera con te, piacere prima mio. Abbiamo fatto con Roberto Riga, sia un inizio di attraversare questa radio in un altro modo, magari parlando con Barisone di economia, che sei più giusto. Io vi ringrazio davvero, vi ricordo Grazie. La seconda puntata di Mama Nero, se no altrimenti Mauro Megoni mi ammazza, anche Alessia Navarro, piena di attori e di gran successo, devo dire che cammina proprio bene ed è bello vedere come anche questi piccoli eventi diventino grandi sul web, che è poi il nuovo modo di comunicare, no? Non il futuro il futuro è questo, i social media, lascio la televisione, continuo sul computer, molto meglio, sono molto più bello, più piccolo. Ah sì? Come sul telefonino. Va bene, grazie Alessandro, grazie a Milano per la messa in onda, grazie a Rachele, grazie Andrea Prosperi, tutti gli ospiti che si sono alternati, grazie Alessia Navarro e Mauro Meconi. Noi ci sentiamo e in qualche caso ci vediamo anche a pillole attraverso il nostro sito Facebook Voice Anatomy. A domani, a domenica prossima, e grazie per volersi così bene.